Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Larry, cerchiamo di fare un lavoro fatto per bene, perché ieri hai fatto un po' di confusione per il Soundchecker Play Music Award 2014-2015, con il quale vogliamo celebrare gli artisti che hanno regalato il suono alla nostra rubrica qui su Radio 24. Lo so, a te non piace quando dico rubrica, al nostro programma di musica. Sì, soprattutto ha lasciato tutto sporco qua a terra, ma è un casino. Vabbè, però. Tanto le pulizie le fai tu. No, le fai tu. Le fai tu, perché tu sei il valletto ufficiale del programma. Però lui ha fatto tutto sto casino qua, tutta sta carta. Possiamo dare il via alla puntata? Sì. Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di musica di Radio 24, in contatto con il Groove Master Studio. Ieri abbiamo celebrato i vincitori del Soundchecker Play Music Award 2014-2015 in varie categorie, ma oggi è probabilmente quella più attesa. Sì, sicuramente una delle più interessanti. Bene, ma vogliamo ricapitolare che cosa abbiamo fatto ieri? Abbiamo aperto le buste, sono venuti fuori quindi i vincitori di alcune categorie. Abbiamo quindi presentato che cosa? Repertorio in italiano? Sì, ha vinto Joe Barbieri, un cosmonauta d'appartamento. Fratello di Bruno Barbieri, il cuoco. Ecco, figurati, fratello, se non dovevi mettere... È vero, la fotografia. Larry, volevo presentarti nel migliore dei modi, hai bruciato la presentazione, fa niente. Poi per la categoria Best New Talent hanno vinto i Native Dancer da Londra, mentre per la categoria Alternative ha vinto Becca Stevens, a sorpresa, che non me l'aspettavo assolutamente, con Perfect Animal. E infine nella categoria International Jazz ha vinto Shaina Steele con Rise, che viene direttamente proprio dalle retrovie, ha fatto uno scatto finale impressionante. Sì, bruciando l'album splendido di Didi Bridgewater intitolato Didi's Feathers. Non so come farò a dirlo a Didi Bridgewater. Eh sì, perché immagino sarà una delusione. Però probabilmente lei vincerà il Grammy Award, che è ben più importante. Per quanto il nostro programma quest'anno ha fatto la sua parte. Eh sì, l'abbiamo anche suonata diverse volte, ci è piaciuto parecchio il suo disco. Bene, allora annunciamo ancora una volta l'MC ufficiale del Soundchecker Play Music Award. È un grande piacere, un grande onore ospitare una voce importante della radiofonia americana degli anni 70, ma anche voce ufficiale in alcune edizioni del Grammy Award del passato, quali Larry White. Swing low, sweet child. Non si può fare niente di serio con quest'uomo, niente. Il più cialtrone proprio del mondo. Lo so. A capitare. Naturalmente voglio ricordare, guarda come si accende, che i vincitori delle varie categorie portano a casa anche una bella cena offerta dal sottoscritto, ovvero il producer del soundcheck, cena preparata dallo chef Andy Luotto, che preparerà cene praticamente per 40-50 persone a un prezzo che naturalmente concorderemo nei prossimi giorni, che non supererà, credo, gli 8 euro per pax. Ah, quindi siamo scesi, prima erano 10. Siamo scesi, con vino però di ottima qualità. L'olio lo porto io però. L'olio lo porto. Sì, perché sono pugliese, mi fido solo del mio olio extravergine di oliva. Allora, Larry White, andiamo a scoprire per la categoria più importante, ovvero Best R&B e quindi Black Music, gli artisti nomination. Apriamo la busta. What can I tell you? Rhythm and Blues is R&B. Sì. Rhythm? Rhythm and Blues, una and volta, blues. Adesso si dice R&B, tu sei vecchio, sei anziano. Blues. Va bene, per Rhythm and Blues, apriamo la busta. Apro la busta? sì, sennò come fai a leggere? è proprio stupido forte questo uomo. Fa una fatica, intanto gli fa... no, non buttare a terra, che poi tromba deve pulire. And the nominations are for R&B, Rhythm and Blues. Ecco. Per bene. Sound check Airplay Academy Awards 2014-2015. We have Prince Artificial Age. Sì, un bel disco, Oh Jesus, Joseph and Mary, have mercy on my soul. We have Mary J. Blige. Ecco, a lui piace molto. Come si intitola l'album di Mary J. Blige, Larry? J. Blige, The London Session. London Session, yes. Bene. Then we have Robert Glasper Experiment. Black Radio 2, and I like that Black Radio, that's nice. Sì, Black Radio is nice. Black Radio 2 è two. Buono anche perché ha vinto il Grammy Award quest'anno. Yes. Eh? Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, Fare il Papa alla Farfalla, questo. Sì. Then we have D'Angelo and the Vanguard, Black Messiah. Black Messiah per D'Angelo. Allora, apriamo la busta e verifichiamo, mi sa che qui li dobbiamo suonare tutti, meritano. Sì, perché comunque la categoria secondo me è proprio più bella in assoluto. Allora, partiamo dalla posizione numero 5. Posizione numero 5 per... I don't like this, but the winner for number 5 is... Sì. Mary J. Blige. Con? With... The London Session. Eccola qui, Mary J. Blige, posizione numero 5, Soundchecker Play Music Award. Il brano è Therapy. Someone help me, turn me round. I'm a victim, hit the sound of my own voice, turn it down. And all I do is aggravation. Why would I spend the rest of my day so bitter? And all that listening is making you bitter. Numero 5 del Soundchecker Play Music Award per Mary J. Blige con Therapy dall'album London Session. E mio caro Larry White, vediamo la posizione numero 4 per la categoria Best R&B. Apollo Booster. Nata volta. Number 4, ladies and gentlemen, Soundcheck Airplay Music Awards 2014-2015, Prince, Art of Age. Mm. Artificial Age. Soundcheck, il suono della musica. Signor Prince si è aggiudicato con questa stagione del Soundchecker Play Music Award la posizione numero 4 con Artificial Age, ma non volevamo perdere tempo e farvi ascoltare anche questo brano appena pubblicato da Prince intitolato Baltimore. Di che cosa si tratta, Francesco? Sì, è una canzone che ha fatto in occasione del suo concerto a Baltimora, che era dedicato a tutto questo fermento che c'è in America in questo momento per questa nuova ondata di razzismo. E anche in questo testo ci sono delle frasi importanti, come ad esempio lui dice che peace is more than the absence of war, cioè la pace è molto di più dell'assenza della guerra, perché in questo momento in America tutti i neri americani sono in fermento per queste questioni di razzismo, in cui appunto diversi poliziotti hanno ucciso dei neri americani senza motivo apparente. Allora, torniamo al Soundchecker Play Music Award, categoria Best R&B per questa domenica. Vediamo posizione numero 3, apriamo la busta, per favore. Apro la busta. L'hai già aperta, l'ho visto. No, apro la busta. Apri la busta. Di legno. Busta di legno. And the winner is Soundcheck Airplay Music Awards. Posizione 2014, number 3. Number 3. Third arrive. Retired Distress Bronzo. D'Angelo and the Vanguard. Title of the album is Black Messiah. Posizione numero 3 per D'Angelo and the Vanguard, Sugar Daddy, qui al Soundcheck di Radio 24. You do the witchy soul. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Di nuovo in contatto con il Groovemaster Studio per l'ultima domenica di Airplay del nostro Soundcheck, e stiamo celebrando i migliori album R&B della stagione votati dalla nostra Academy e anche dal pubblico che ha inviato le proprie preferenze all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it o ha utilizzato anche i nostri contatti su Twitter e Facebook. Bene, siamo arrivati, questo era D'Angelo and the Vanguard con The Door. D'Angelo con Black Messiah ha raggiunto quindi la posizione numero 3. Pensavo quasi che D'Angelo con Black Messiah potesse vincere questa categoria. Io prevedevo una grandissima lotta fra lui e Kendrick Lamar, invece mi sono sbagliato. Allora, apriamo la busta, mio caro Larry White, MC ufficiale della manifestazione. Number 2. Apro la busta. Apri la busta. Ecco, è un tappo, una bottiglia, stappato. Number 2. Number 2 di Soundcheck Airplay Music Academy Awards 2014-2015. Categoria. Ladies and gentlemen, categoria. Rhythm and Blues. Best rhythm and blues. Best. Not the worst, but the best rhythm and blues, ladies and gentlemen. Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, the name of the album. Caspita, posizione numero 2 per Kendrick Lamar. Il brano è You Ain't Gotta Lie, Mama Said, To Pimp a Butterfly. Kendrick Lamar, posizione numero 2. Soundcheck Airplay Music Award. I can spot you a mile away. I can see your insecurities written all on your face. So predictable your words, I know what you're gonna say. Who you fooling or you assuming you can just come and hang with the homies, but your love for realness ain't the same. Circus acts only attract those that entertain. Small talk, we know that it's all talk. We live in the laugh factory every time they mention your name. Soundcheck, il suono della musica. E allora, andando per esclusione con Mary J. Blige, posizione numero 5, Prince 4, 3 di D'Angelo and the Vanguard con Black Messiah, posizione numero 2 per Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, vince la categoria più difficile, Best R&B stagione 2014-2015 del Soundchecker Play Music Award, Larry White. Robert Glasper, Experiment. Black Radio 2. E allora complimenti a Robert Glasper, gli mandiamo subito la comunicazione ufficiale, mio caro Francesco, e anche l'invito a cena. Sì, l'appenderà di lato al Grammy Awards. Beh, una bella soddisfazione anche per noi. Oggi è l'ultima domenica, quindi più tardi nella seconda parte, quella delle 19:15, celebriamo invece il jazz italiano e staremo a vedere che cosa succederà. Ah, ci sarà anche Larry White. Non lo so, non so se si può trattenere. Ti puoi trattenere anche per l'internet? Oh, già, sono stato assunto, mandato al lavoro la cuoco. Sì, certo, sì, certo. Ecco, hai fatto bene a ricordare. Da 15 euro all'ora. Perché i vincitori delle varie categorie, voglio ricapitolare, quindi Joe Barbieri per il repertorio in italiano, Native Dancer Best New Talent, Alternative Music Becca Stevens Band Perfect Animal, International Jazz Shayna Steele, Robert Glasper Best R&B, questi signori con tutto l'entourage, musicisti, promoter, tour manager, ingegneri del suono, sono invitati a cena, nostri ospiti, una cena che verrà preparata nei dettagli dallo chef Andy Luotto a un prezzo che naturalmente concorderemo, che credo si aggirerà sui 7 euro e 50, sì. Forse col vino, facciamo tutto carne di maiale. Tutto il maiale. No, io del maiale non si butta niente. Scusami, lo sai che io riceverò il rider da parte degli artisti, perché alcuni artisti sono vegetariani, c'è chi non mangia maiale, chi cicoria, non mangia agnello. Tanta cicoria. Sì, così, cicoria. Così risparmiamo. Sa nel tuo giardino qua. La prendi qui. Va bene. Allora chiudiamo questa prima parte del soundcheck di questa ultima domenica di Airplay del nostro programma con il nuovo album di Robert Glasper, visto che ha vinto lui. L'album si intitola Covered, ovvero celebra alcuni artisti molto amati da Robert Glasper e rivisita le loro composizioni in trio con Vincente Archer al contrabbasso e Damion Reed al contrabbasso. E qui una cover, non è bello dire cover, però un arrangiamento di un successo dei Radiohead intitolato Reconner. Robert Glasper al soundcheck di Radio 24, ci sentiamo più tardi alle 19:15. Grazie a Larry White, resti con noi Larry. Yeah, anzi, okay. Se ci cucini qualcosa. No, ma io chiamo il cuoco. Chiama Andy Luotto, chiama che ci cucina qualcosa lui, dai. Soundcheck, il suono della musica, di Gigi Telesforo. Eccoci attivi per la seconda parte del soundcheck di questa domenica, ultima domenica di Airplay per noi, sì, perché il nostro Francesco Tromba andrà in vacanza, noi invece continueremo a lavorare per fare concerti in giro per l'Italia, ma anche per preparare una sorta di the best del nostro soundcheck che coprirà i vari weekend estivi da qui fino alla metà di settembre. Poi dovremmo, perché non si sa mai, dovremmo tornare in onda con una nuova edizione, la terza per noi. Sì, da qui a qualche mese potrebbe succedere di tutto, non si sa mai. Ho salutato il pubblico? No, forse ancora. Allora lo faccio. Buonasera a tutti voi in contatto con Radio 24 per il soundcheck, prova del suono. Buonasera da Gigi Telesforo. Buonasera a Francesco Tromba e un ben ritrovato al nostro MC ufficiale che oggi leggerà i vincitori della categoria jazz italiano per il Soundcheck Airplay Music Award che stiamo celebrando in questo weekend. Ladies and gentlemen, please put your hands together, Mr. Larry White. Swing low, sweet chariot. Coming for the caramel, swing low. Oh Lord, ecco, mi suggerisce che per il prossimo anno dovremmo inserire anche come categoria il gospel. Non è male. Bene, Larry White, andiamo a verificare, aprendo la busta, le nomination del nostro soundcheck per la categoria jazz italiano. Naturalmente artisti votati dalla nostra Academy, abbiamo già detto chi sono i giornalisti, critici musicali, esperti di musica, direttori d'orchestra, promoter, produttori discografici che hanno espresso il loro giudizio insieme al pubblico che ha inviato le preferenze attraverso il sito, l'indirizzo di posta elettronica, Twitter e via dicendo. Ah, sono stanchissimo, eh? Eh sì, è dopo una stagione. No, ma soprattutto sono stanco quando c'è quest'uomo. Vai, apriamo. Apri la busta. Apri la busta. Yeah, I'm gonna open up the booster. Yes. I like the booster. That's a nice booster. Jazz italiano, le nomination sono andate a... Ok, we have Mauro Ottolini. Come fa a vincere uno con un nome così? Non è impossibile. Quale? Ottolini. Mauro Ottolini e Susa Phonics. Yes, no, beh, non è perché? Bello che nome ha? Un nome italiano. Ma è brutto come nome. Come si intitola l'album? È musica per una società senza pensieri. Senza pensieri. È troppo lungo il titolo, non può vincere questo. Non può vincere. Secondo te? Non lo sappiamo. No, non vedremo. Può allora, poi. Rita Marco Tulli, sì. E Luciano Biondini, ma che brutto nome pure questo, non può essere. Luciano Biondini, grande fisarmonicista, con la brava Rita strada, Marco Tulli. La strada invisibile. Strada invisibile, questo è il titolo del disco per la ACT tedesca. Una droga, questo non può vincere. Mm, va bene. Then we have Rosario Bonaccorso. Sì. Yeah, viaggiando. Viaggiando, bel disco. Che se ne va, perché quello di bel disco va. Quello ma di Rosario nome, Bonaccorso, ma che dai. Che nome sono questi? Non, no, sono like, italiani. Like James. Andiamo avanti, okay. Larry. Domenico Sanna, Brooklyn Beat. Quello è un buon nome. Già, perché è americano. Yeah. Lo sapevo. Brooklyn Beat per Domenico Sanna con il suo trio Amin Salim e Dana Hawkins. And Max Yonara. Two for Stevie, I like that. Two for Stevie. È Two for Stevie, dedicato a Stevie Wonder. Allora, I know he gonna win. Allora, partiamo. Posizione numero 5. Apriamo la busta. Apro la busta. Sì. Non così, che poi non leggi nulla. Che cialtrone infinito che è quest'uomo. Allora, posizione numero 5 per... Number 5. Ok, we have Rosario Bonaccorso viaggiando. Viaggiando di Rosario Bonaccorso, posizione numero 5. Grazie a Rosario Bonaccorso, il brano è Give Me Your Hand and Sing al soundcheck di Radio 24. Checker Play Music Award, categoria jazz italiano, posizione 5 per Rosario Bonaccorso con l'album Viaggiando, e andiamo a scoprire chi si aggiudica la posizione numero 4 per questa categoria così celebrata nel nostro paese. Number 4, Mauro Ottolini. Mauro Ottolini, oh, sono contento. Susa per Phonics, music per una società senza pensieri. Tu non devi pensare, tu ti devi alzare, mettere la musica e non pensare. È quello che dice Mauro Ottolini. Appunto, ma io sì che non penso quando suona, neanche lui, perché non ha vinto, capito? Non ha vinto. No, posizione numero... guarda che abbiamo suonato tantissimo jazz italiano, quindi prendere la posizione numero 4 non è male. Ma che il nome deve cambiare nome. Mauro Ottolini. Deve cambiare nome. Però Susa Phonics ti piace. Susa Phonics ok. Non è male. Sai come si intitola questo titolo? Ti piace? Sai come si chiama il brano che noi... quello rappresentativo del disco? I don't know. No, te lo dico io. What? I'm gonna tell you. Chubanga. Chubanga, I like that. You like Chubanga? Like Chubanga. Eccolo, yes, qui, man. Chubanga, Mauro Ottolini e Susa Phonics. Soundcheck, il suono della musica. Melodia Vagabondi delle Stelle, un brano scritto da Rita Marco Tulli e proposto insieme al fisarmonicista Luciano Biondini per questo album splendido intitolato... come si intitola l'album? La strada invisibile. Vedi come è preparato, la strada invisibile. Invisible Road. Album prodotto per la ACT tedesca che si aggiudica la posizione numero 3 per il jazz road. Italiano del road. Soundchecker Play Musicer Play 2014-2015. Sei invisible un casinaro road. Terribile, Larry. Voglio the ricordarti che i vincitori anche di questa categoria saranno nostri ospiti a cena da Andy Luotto. Gli italiani possono fare le camerieri, vengono a fare le camerieri, gli italiani fanno il cameriere. No, non è vero. Io mi devo ancora accordare con Andy Luotto, che non sa che verranno tutti a cena da lui, preparerà una bella cena, e che ho deciso personalmente il costo per Pax, che è, direi intorno ai 6,50 euro, potrebbe andare bene con vino di prima qualità. Poi sono americani, questi mangiano assai, quindi A parte gli italiani, facciamo un menù a parte. Bene, andiamo a vedere la posizione numero 2, quindi siamo sul podio, medaglia d'argento, va, apriamo la busta. Apro la busta? Sì. Ho aperto la busta. Di compensato. Busta di compensato. Number two, ladies and gentlemen, Domenico Sun. Brooklyn Beat è il nome dell'album. Allora, per Giando Music, Brooklyn Beat con Domenico Sun, insieme ad Amin Salim al contrabbasso e al bravissimo Donna Hawkins, si sono esibiti a New York ultimamente, i primi di giugno. Posizione numero due, siamo molto contenti per questo meraviglioso pianista italiano della nuova generazione. Il brano si intitola Evidente, qui al Sound Check di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Questa interpretazione di You Are the Sunshine of My Life di Stevie Wonder per Maxionata e Dado Moroni ci fa capire che vincono questi due signori il Soundchecker Play Music Award per il jazz italiano di questa stagione. Quindi non c'è bisogno di aprire la busta, per esclusione siamo andati, però puoi annunciare, così come farebbe un bravo MC ai Grammy Award, i vincitori, perché dobbiamo essere veramente ufficiali in questo momento. Ladies and gentlemen, hanno vinto. Well, let me finish. Sì, ti faccio finire. Sì. Ladies and gentlemen, sì. Soundcheck Airplay Music Awards 2014-2015 in the category of Jazz Italiano, Italian Jazz. Mm-hmm. Dado Moroni and Max Yonata. Title of the album is Two for Stevie. Adesso fammi parlare un attimino. Sì. Vedi che ha vinto sempre un negro americano. Ma sono bianchi questi signori. Sì, però anche la canzone è negro italiano. Sì, perché il disco è dedicato a Stevie Wonder. È anche Chicago. Allora, sì. Quella è più funk di così, non si può avere. Mm-hmm. Io vorrei ringraziarti dal profondo del cuore, Larry White, perché hai regalato dei momenti indimenticabili. E devo dire che la puntata realizzata con te sui 10 comandamenti dello show business internazionale è stata una delle più criticate della nostra stagione. Quindi ti ringrazio moltissimo. E vorrei ricordarti di chiamare Andy Luotto e dirgli che saremo. Quanti siamo? 50-60? Sì, forse 70. Sì, per celebrare il Soundchecker Play Music Award e chiudere la stagione andremo tutti a cena da lui al prezzo di 4,50 euro a persona. Con vino buono, l'olio lo porto io. Cicoria e fegatina di maiale. Grazie Andy, ti voglio bene, lo sai. Un abbraccio, grazie. Un abbraccio a te. Andy Luotto è stato formidabile, un compagno di avventure anche per questa stagione che si chiude in questo momento. Quindi grazie a Francesco Tromba per tutto quello che ha fatto per il programma. Continuerai a lavorare, non andrai in vacanza perché bisogna preparare il the best del nostro soundcheck. Grazie a Radio 24, al direttore Roberto Napoletano, Alessandra Scaglione, a Sebastiano Barisoni, grazie a tutto lo staff di Radio 24. Fatemi ringraziare anche alcune persone fondamentali per noi, caro Francesco. Sì, io ringrazio il pubblico che per la sua passione ci ha seguito con così tanto affetto, che ci scrivono spesso, arrivano diverse email. Io li ringrazio perché senza di loro non potremmo andare avanti. Infatti, grazie quindi agli appassionati di musica di Radio 24. Noi ci vediamo in giro adesso, fra qualche giorno, perché riprendo la tournée con la mia band. Quindi vi aspetto e non vedo l'ora di abbracciarvi tutti. Grazie a tutti voi, ci risentiamo comunque la prossima settimana, perché dovrebbe partire il The Best del Soundcheck. Sì, quindi la musica non finisce su Radio 24. Grazie a tutti, vi vogliamo bene, viva la musica, viva Radio 24. Grazie Andy. God bless you and Lord have mercy on your soul. Se vado a papà di padamo tinto, stendi ti vado a papà di padamo tinto.